461. Pesce a taglio in umido. Il pesce a taglio di cui potete servirvi per questo piatto di ottimo gusto può essere il tonno, l'ombrina, il dentice o il ragno, chiamato impropriamente bronzino, lungo le coste dell'Adriatico. Qualunque sia, prendetene un pezzo di circa grammi 600 che potrà bastare per 5 persone. Levategli le scaglie e, lavato ed asciugato, infarinatelo tutto e mettetelo a rosolare con poco olio. Levatelo asciutto, gettate via il poco olio rimasto e pulite la cazzaruola. Fate un battuto, tritato molto minuto, con mezza cipolla di mediocre grandezza, un pezzo di sedano bianco lungo un palmo e un buon pizzico di prezzemolo. Mettetelo al fuoco con olio a sufficienza e conditelo con sale, pepe e un chiodo di garofano intero. Quando avrà preso colore, fermatelo con molto sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Lasciatelo bollire un poco e poi collocateci il pesce per finirne la cottura, voltandolo spesso, ma vi prevengo di servirlo con molto del suo denso intinto, onde vi sguazzi dentro.